Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Le 10:07 minuti, buona domenica da Stefano Gallarini, comincia Il riposo del guerriero. E questa domenica preparatevi, guardatevi allo specchio, perché dovete considerarvi o belli o brutti, perché di questo parliamo. Oggi parleremo del bello del brutto, perché il brutto ha un suo fascino, è indiscutibile. E poi cos'è brutto? Insomma, bisogna cercare di capirci. Vorrò saperlo da voi, ovviamente, ma anche dagli ospiti che oggi ascolteremo. Prima di tutto, però, vi ricordo come sempre la possibilità di portarvi a casa il catalogo della mostra di Miró, Poesia e Luce a Genova, e il biglietto anche per l'ingresso, ammesso che riusciate ad associare questa volta non un'opera di Miró, anche perché la maggior parte delle opere di Miró si intitolano senza titolo e quindi sarebbe troppo facile, ma questa volta dovete associare qualcosa che ha a che fare con la vita di Miró a questa canzone. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila. Ecco, ci volevano tirare domenica mattina gli Gypsy King per muoverci un attimo. Allora, per cercare di rispondere a questa domanda, poi io vi aiuterò e molto anche nel corso del gioco più tardi, il numero per prenotarvi 800 24 00 24, si giocherà alle 11:45 circa oggi. Tornando invece alla puntata, al bello del brutto, voglio sapere voi che cosa considerate brutto. Bello non mi interessa. Che cosa considerate brutto ma che in qualche modo vi affascina? Fatecelo sapere via Facebook oppure al 349-238-6666. E per iniziare, come sapete, cominciamo sempre con una canzone. Ho scelto questo, è stato un successo, poi lui è sparito, credo, completamente, di un po' di anni fa del Festival di Sanremo. E nessuno si domanda dove sei. Vanno via, ma io ti aspetto. Con in mano questi fiori per poterti dire tanti auguri, brutta. Io so che ve la ricordate, questa canzone ebbe un grande successo, devo dire, non mi ricordo come si piazzò in quel Sanremo. Poi lui, Alessandro Canino, questo suo nome, si è, cioè, così è sparito, non so, non abbiamo più sentito, almeno io non me lo ricordo più, non so adesso cosa stia facendo, però questa canzone è rimasta nel cuore e nelle orecchie di molti, sarà anche per questo reghettino che la sostiene. Pia Capelli, buona domenica, ciao. Ciao Stefano. Allora, Pia Capelli è giornalista di arte contemporanea e filosofia dell'arte, scrive per il Domenicale, Il Sole 24 Ore, ma anche scrive anche per molte altre testate. Allora Pia, io con Pia ho chiacchierato già una mezz'oretta, abbiamo chiacchierato, sì, prima delle rete, e avrei parlato con te, credo, per, cioè lo farò ancora oltre alla trasmissione, perché qui ha veramente tantissime cose da raccontare, anche molto divertenti. È la prima volta che sei in radio? Sì, la prima. Sei emozionata? Eh sì. Ma perché? Sei irrigidita rispetto a un attimo fa, dovreste vedere. Allora Pia, da cosa cominciamo? Cos'è brutto? Direi che cominciamo da questo, da che cosa intendiamo quando diciamo brutto. Cosa intendiamo? Intendiamo molte cose diverse, perché il brutto è un concetto molto relativo, esattamente come il bello, sì. Forse ancora più relativo del bello, nel senso che si è cominciato tardi a studiare il brutto, a metà dell'Ottocento circa, e si è cercato di capire quante sfumature avesse il brutto. Naturalmente il brutto è relativo. 50 sfumature di brutto. Quindi. 50 sfumature e più. Anche di più, sì. Sfumature di brutto. Il brutto per noi vuol dire tante cose, ma soprattutto quando diciamo che una cosa è brutta, spesso implichiamo anche un altro tipo di giudizio, che non è solo quello estetico. Come fanno i bambini che dicono tu brutto? Sì. A chi porta via un giocattolo. Ecco, allora dobbiamo sgombrare dal campo intanto questa confusione tra il brutto cattivo e il brutto brutto, cioè il brutto che ha a che fare con l'estetico. Un'altra distinzione è tra l'opera d'arte che gioca con il brutto, che si occupa del brutto, e l'opera d'arte che è brutta perché è riuscita male, quindi il brutto volontario e il brutto involontario, perché anche questo è importante. Oggi l'arte è spesso brutta, nel senso che usa proprio il brutto come oggetto, come strumento, per cui io ogni volta che chiacchiero, che dico che mi occupo d'arte contemporanea, mi sento chiedere: ma perché c'è così tanta roba brutta in giro? È vero, io sarei uno di quelli, ovvio. È la domanda tipica. E chi si occupa d'arte invece è abituato a guardare le cose con un altro occhio, per cui ad aspettare, a dare un giudizio dopo che ha visto. Ecco, senti, il fatto che l'arte oggi utilizzi il brutto non è più semplice rispetto al passato? Utilizzare il brutto? Beh, cioè, quindi si riescono a far passare cose che altrimenti non passerebbero minimamente come arte. Scusa, ma sai, io faccio veramente il populista dell'arte in questo momento, ma voglio farlo. No, fai bene. è il famoso sdoganamento di cui poi oggi parliamo. Sì. È lo sdoganamento del brutto. Beh, è più facile, ma anche più complesso, perché quando dentro nel mondo dell'arte entrano una serie di categorie che prima non gli appartenevano, l'arte in realtà si arricchisce anche. Certo, diventa più difficile da comprendere, perché all'occhio immediatamente, o alla pancia o al cuore, parla con un linguaggio diverso. E il punto è proprio questo, che l'arte ha cambiato linguaggi, quindi l'arte oggi non si dà più il compito, come nell'antichità, di produrre un bello pacificante, rasserenante, che ci conforta. L'arte si dà un compito diverso. Quindi con l'arrivo dell'informale, del concettuale, si ragiona in altri termini. L'arte è oggi soprattutto, più che dare delle risposte estetiche, fa delle domande, cioè interroga. Lascia il compito a noi, ecco, in poche parole. Ma diciamo che interroga il reale con i suoi strumenti, sì, che sono anche degli strumenti, se vuoi, grotteschi, brutti, più complicati di quelli che si usavano quando l'idea era soltanto quella di arrivare ad un'opera d'arte rasserenante. Ecco, poi ci racconterai invece di artisti che hanno creato opere d'arte considerate brutte nel momento in cui le hanno fatte, che invece oggi riconosciamo come belle, perché ce ne sono ovviamente molte. Il riposo del guerriero. Intanto verifico un sms che mi è arrivato, ringrazio un ascoltatore, perché c'è una notizia che mi era sfuggita assolutamente, che riguarda Alessandro Canino. Adesso la controllo, poi ve la racconto, ve la dico. Allora, molti considerano brutti alcuni animali, ad esempio pipistrelli, serpenti e rettili in genere, invece io li trovo affascinanti. Ecco, gli animali fra l'altro hanno anche molto a che fare con un aneddoto sul brutto. Vogliamo raccontarlo adesso, visto che è arrivato il messaggio, quello dell'uccello che è rimasto, che è stato in dogana per troppo tempo. Il famoso uccello di Brancusi. Certo, nel 1927 c'era il primo movimento di grande riconoscimento dell'arte europea anche da parte degli americani, e parte da Parigi un transatlantico carico di opere di artisti europei. Tra queste opere c'era una grande cassa con delle sculture di Brancusi in metallo. E l'opera, la cassa era accompagnata da un accompagnatore di eccezione che era Marcel Duchamp, il quale, quando entra nel porto di New York col suo carico d'arte, si vede bloccare dai doganieri, i quali aprono la cassa con le opere di Brancusi, guardano questi oggetti in metallo, e in particolare ne vedo uno molto grande che aveva come titolo Uccello nello spazio, e dicono: no, questa non è un'opera d'arte, noi non la riconosciamo e non possiamo applicare quest'opera agli sgravi fiscali che applichiamo all'importazione di opere d'arte, per cui dovete pagare tutto il prezzo completo dell'importazione per i manufatti metallici. Certo, era un ammasso di metallo. Era una figura allungata che effettivamente aveva loro il problema di non avere le ali, per cui per loro un uccello senza ali non era uccello. E quindi comincia un processo in tribunale. Vengono sentiti i testimoni, viene interrogato anche Steichen, il quale osserva che è un uccello quando l'artista dice che è un uccello, sì. Per cui gli viene chiesto: ma a lei basta che sia l'artista a dire che una cosa è arte? E la risposta è sì, però poi gli chiedono anche: ma se lei questo uccello lo vedesse nel bosco, gli sparerebbe? E lui è obbligato a dire no. Ma alla fine l'opera viene sdoganata in tutti i sensi, nel senso che la battaglia in tribunale si trasforma in una nuova idea filosofica d'arte, per cui i giudici americani sono costretti a riconoscere che un uccello non ha bisogno di avere le ali per essere un uccello in arte, perché l'arte può deviare dalla verosimiglianza totale. e quindi l'uccello di Brancusi entra trionfalmente negli Stati Uniti e apre anche una nuova epoca per l'arte concettuale, anche se Brancusi non si considerava un astrattista, non si considerava un artista astratto, però è proprio lì che c'è il cambio di passo, no? Quando si comincia a parlare di arte concettuale, quando quello che vale è il concetto dell'opera e non soltanto il suo valore formale, la sua estetica. Lì cambia tutta la nostra idea di bello e di brutto, perché dobbiamo pensare a che cosa l'opera vuol dire, non soltanto a quello che stiamo guardando. Sì. E quindi diciamo che comincia una nuova era. Noi adesso ci consideriamo nell'era del post informale, del post concettuale, e oggi anche i giovani sono abituati a vedere delle immagini molto diverse da quelle che erano abituate a vedere le generazioni precedenti, quindi sono più abituati all'idea anche di un brutto che è bello, di un brutto che è interessante. Ma l'idea del piacere del brutto è sempre esistita nell'arte come negli altri campi. Certo. È un piacere negativo che però è comunque un piacere, quindi noi siamo attratti dal male, dal vizio, le catastrofi ci dalla piacciono, catastrofe, dalle incidenti in autostrada. Finché non ci riguardano, ovviamente, e purtroppo sono eventi drammatici, però hanno sempre fascino, no? Quando li vediamo. Sì, molto, così come l'arte contemporanea, che gioca molto con il raccapricciante, con la carne, con il sangue, anche con tutto quello che confina con la morte, che però è sempre stata un tabù, per cui lì sì. C'è anche il giudizio di bruttezza che ha a che fare con dei tabù invece morali sì. O religiosi, perché poi nella storia spesso alcune opere sono state rifiutate in quanto brutte, ma dietro c'erano delle motivazioni religiose, per cui anche Caravaggio è incappato nel giudizio di bruttezza ed è stato rifiutato, e quindi insomma. Ah, poi arriviamo nel passato invece, sì. Appunto il brutto, cioè il considerato brutto, invece se lo vediamo oggi, diciamo, è bravissimo, è straordinario, come poteva essere stato brutto all'epoca non lo so, ma ne parleremo. Stefania Carini, buona domenica. Buona domenica, ciao a tutti. Ciao, giornalista di Europa Quotidiano. Allora, abbiamo parlato proprio adesso con Pia Capelli dei nativi digitali, che nasce con la televisione, con internet, è abituato ormai a immagini di tutti i tipi, quindi comunque ha una visione diversa proprio dell'immagine, abituata anche di più al brutto e quindi al piacere anche del brutto. C'è anche una TV che possiamo per qualche ragione considerare brutta, ma che continua a riscuotere grande successo, Stefania. Ma allora, di sicuro, prima di tutto perché tutto quello di cui avete parlato in realtà esiste all'interno della televisione, nel senso che questo grande contenitore dove troviamo di tutto, dal grottesco al quotidiano, pensiamo solo a tutte le immagini di TV reale dove andiamo incontro a una serie o di incidenti o di persone che fanno cose quotidiane considerate un tempo brutte, non belle come l'arte di una volta, per cui è ovvio che la televisione, essendo questo grande contenitore melodrammatico, eccessivo, estremo, che supera spesso il limite perché si trova spesso a riprendere cose oltre il nostro limite, è anche un grande contenitore del brutto, che però non è appunto un valore, un disvalore, non è è un altro valore rispetto al bello. Ecco. E poi ovviamente ci sono dei programmi brutti. Sì, oggettivamente brutti, perché oggettivamente brutti, che però riscuotono un grande successo. A me vengono in mente ad esempio alcune fiction, quelle forse se avete presente L'onore e il rispetto, interpretate da Garco, scritte da Losito, sono fiction eccessive, melodrammatiche al massimo, visivamente anche brutte, in cui gli attori recitano come riescono, le inquadrature sono quelle che sono brutte, se paragonate ad esempio a un grande, grandissimo telefilm americano, eppure riscuotono un grande successo di pubblico, perché in realtà rientrano in questa estetica dell'eccesso, di vedere fin dove si può arrivare, per cui catturano la nostra attenzione, perché comunque il brutto cosa fa? Il brutto scatena in noi qualcosa, scatena la nostra attenzione, ci procura un piacere. Ecco, in realtà il vero brutto, cioè il vero brutto negativo, se vogliamo, in televisione o forse anche nell'arte in generale, è il mediocre, è quello che in noi non suscita niente. Sono trasmissioni come quella appena cancellata adesso, che si intitolava Rai Bo, dove appunto vedendola l'unica espressione che viene in mente è appunto boh. Infatti non lo sapevano neanche perché? Loro probabilmente per quello che... Pia può intervenire? Esatto. No, scusami Stefania, perché c'è Pia Capelli che è qua in studio con me e lei non osa, continua ad annuire le cose che dici, non osa intervenire ma so che vorrebbe, quindi può intervenire serenamente. Io sono d'accordissimo, sono d'accordissimo, perché proprio come dicevo prima in realtà è il brutto un po' involontario quello che fa fallire l'opera, che sia un'opera d'arte, che sia un'opera visiva, qualsiasi campo di cultura contemporanea appartenga. La vera opera brutta, secondo me, in arte è l'opera che fallisce, nel senso che non si mette in comunicazione. Cioè è inconsapevolmente brutta. È inconsapevolmente brutta o comunque manca di mettersi in comunicazione con chi la guarda, per cui rimane muta. E invece di aprire tutto quel godimento che appartiene alla comunicazione quando si entra in risonanza, no, con un'opera, rimane chiusa in se stessa, quindi non entra né in comunicazione con chi la guarda né entra in una relazione con le altre opere d'arte del suo tempo e di quello precedente, perché si può avere una grande esperienza estetica, un gran godimento anche davanti a un'opera che si occupa di brutto, ma davanti a un'opera muta che resta in silenzio, che fallisce la comunicazione, allora lì è proprio il fallimento totale. Certo. Stefania, tu adesso parlavi, citavi una fiction brutta appunto perché malfatta, no? Da un certo punto di vista. Però volutamente malfatta, da quello che ho capito io. Io sì, non l'ho vista. Certo. Quindi... No, assolutamente sì. L'Osito gioca volutamente con alcuni, come dire, alcune tecniche del melodramma e tutta una... come dire, un filone melodrammatico che poi è tipico e piace al pubblico di Canale 5, quindi sta parlando a quel pubblico e va talmente oltre che anch'io rimango totalmente affascinata a guardare per capire, ovviamente il mio fascino è di magari di lettura, certo, doppia, è un fascino, cioè, critico, dove arriva, sì. Però comunque mi ha preso, così come può prendere un'altra persona che magari per fortuna, meglio ancora, non ha questa lettura e si gode totalmente questa cosa comunque eccessiva, ma è lo stesso come capita con le soap opera, insomma il pubblico, sì, sa che siamo davanti a qualcosa di oltre. Stavo arrivando a quello, però, alle soap opera. Cioè, peggio, forse sono ancora più appunto mute quelle opere che credono in realtà di dire qualcosa, cioè penso ad alcune fiction... magari di Rai 1, considerate impegnate, considerate capaci di raccontare la nostra storia, dove in realtà non solo ci sono degli errori tecnici, visivi, di regia, di fotografia, ma in più in realtà sono totalmente medie, mediocri, in realtà non dicono quello che vogliono dire, allora sono veramente brutte. In quel caso involontarie, perché credono di dire qualcosa. E sono quelle che non comunicano, come Pia Capelli faceva notare, esatto, prima. Grazie Stefania Carini, buona domenica. A voi, grazie. Grazie. A voi, grazie. Il riposo del guerriero. Bello del brutto su Radio 24 nel riposo del guerriero, c'è Pia Capelli con me in studio. Oggi arrivano i vostri messaggi, una parentesi, era arrivato un messaggio allarmante su Alessandro Canino, appunto l'artista che ha cantato Brutta, e sta benissimo, volevo dirlo all'autore del messaggio che in realtà sta benissimo e canta ancora. Allora, era arrivato sesto, tra l'altro, in quel famoso Sanremo del 1992, internet in questo senso è... straordinario. E Pia, quando non c'era internet, con l'arte come si faceva? Era più difficile a volte, no? Cercarsi le cose. Quando non c'era internet si litigava sul bello e sul brutto esattamente come oggi. Uguale. Uguale, non arrivavano i messaggi, non arrivavano gli sms per dire che è brutto quello che non piace. Però c'erano delle diatribe esattamente come oggi, tant'è che quelli che noi oggi consideriamo dei grandissimi artisti, sì, hanno avuto le loro disavventure, sono stati a volte anche rifiutati o tolti proprio dall'altare perché avevano dipinto, rimossi. Proprio rimossi. Tu ti riferisci a Caravaggio, se non mi sbaglio? Mi riferisco, sì, anche a Caravaggio. Caravaggio è un esempio, nel senso che per noi oggi è inconcepibile, certo, l'idea di buttare via un Caravaggio. È impossibile, no? Ma anche perché è per forza di cose bello, cioè forza di cose nel nostro canone estetico è bello, è disegnato bene. E certo, la distanza storica è proprio quella che ci serve per giudicare, ci vuole sempre un po' di tempo per capire cosa rimarrà. nella storia del bello e del brutto, però a Caravaggio sono andate parecchie cose storte, a parte il carattere difficile, ma soprattutto quando si metteva a dipingere le Madonne spesso incappava in censure varie, perché naturalmente la Vergine Maria era l'incarnazione della virtù, per cui non poteva essere brutta, e gliene sono successe parecchie. Per quanto riguarda per esempio la morte della Vergine, che era un quadro già di per sé audace perché raffigurava la Madonna morta sul letto di morte, per esempio è nato un grande scandalo e l'opera è stata rifiutata, nel senso che ma rifiutata per il suo contenuto, nel senso morale, tra virgolette, o per il... Anche, ma anche per le scelte estetiche che sono state fatte. Ecco. Nel senso che la leggenda voleva che Caravaggio avesse usato come modella per il corpo della Vergine morta una prostituta annegata nel Tevere. E quindi questo corpo era un corpo gonfio, era un corpo anche che si allontanava dai canoni della bellezza del momento. E di certo l'idea che quello fosse il corpo della madre in più di Cristo, una prostituta, che era il tipo di donna che poi Caravaggio frequentava, per cui le usava spesso come modelle, ed erano anche i tipi di donne che potevano fare le modelle all'epoca, per i pittori, tutto questo messo insieme ha fatto sì che la morte della Vergine venisse assolutamente rifiutato. E poi è successo altre volte con altre, per esempio altre due Madonne, la Madonna dei Palafrenieri, la Madonna dei Pellegrini, entrambe sono state messe in discussione e rifiutate dal committente, per cui le stesse persone che hanno pagato Caravaggio per dipingerle, poi quando hanno visto l'opera finita hanno detto no, a me questa Madonna con questi tratti non va bene, questi corpi brutti, questi piedi nudi, questi seni che si vedono non vanno bene, quindi naturalmente c'è dentro un giudizio che è un misto di estetico e di morale, che poi alla fine è la stessa cosa che facciamo noi oggi. Anche noi oggi diamo del brutto a quello che ci disturba moralmente, anche se non sempre lo sappiamo, non ci rendiamo conto sempre di cosa stiamo dicendo quando diciamo che una cosa è brutta. A volte intendiamo che è cruenta, che è violenta o che è raccapricciante, e quando c'è di mezzo il corpo umano questo discorso e poi ne parleremo spesso. Fra l'altro parlando di Body Words sicuramente. Carolina Cutolo, buona domenica. Buona domenica a voi. Allora, Carolina Cutolo rappresenta un concorso letterario, siamo alla terza edizione, attenzione, esatto. Chiamato Il racconto più brutto, è il concorso letterario che premia il mediocre sublime, perché il brutto ha un suo fascino, lo stiamo continuando a dire oggi. Come funziona questo concorso, Carolina? Guarda, funziona che vengono selezionati 10 racconti finalisti tra quelli che arrivano qui in redazione e verranno votati dal pubblico la serata del 21 aprile sulla base di parametri assolutamente controtendenza rispetto ai normali concorsi letterari, cioè di solito si premia il bello, si premia il valore positivo, invece in questo caso i parametri sono la bruttezza, quindi assolutamente racconti sgrammaticati, scritti male, con strutture ridicole e con contenuti insomma altrettanto ridicoli si spera, e poi assolutamente fondamentale inconsapevolmente brutti e vanagloriosi, cioè che siano stati composti con la convinzione di stare facendo qualcosa di assolutamente invece meraviglioso, bello, di qualità. Quindi ecco, riallacciandomi a quello che si diceva all'inizio della puntata, alla distinzione fondamentale tra il brutto consapevole e quindi in qualche modo una sorta di caricatura voluta, di satira, e quello inconsapevole, noi premiamo quello inconsapevole. Ecco, ma sono racconti che vi devono arrivare oppure voi li prendete dai racconti che partecipano ai concorsi nazionali o internazionali di editoria? No, come questa funziona? È un'ottima domanda. Cioè, nel senso che io scrivo volutamente male qualcosa, in modo completamente sgrammaticato, e ve lo mando per cercare di vincere, oppure voi prendete invece i romanzi, la letteratura che normalmente potrebbe essere premiata nei grandi concorsi letterari? Talvolta, ahimè, le due cose si sovrappongono involontariamente, però no, noi selezioniamo solamente cose scritte involontariamente, perché la vanagloria non può essere riprodotta artificiosamente, quindi noi consigliamo a chi ci invia racconti di ripescare dal cassetto qualcosa Hanno scritto e che poi hanno nascosto, di cui si vergognano profondamente. Ho capito, quindi tu dici o segnalazione di magari romanzi pubblicati che sono segnalati a voi per partecipare a questo concorso, ma perché magari sono anche romanzi pubblicati che non hanno nessun valore, senza magari, sicuramente così. E invece dici altre cose personali, probabilmente scritte nel passato e quindi con errori grammaticali piuttosto che... No, veramente questo è un elemento molto importante del concorso, perché l'autore deve essere consapevole della propria bruttezza, perché chiunque scriva con un minimo di onestà intellettuale sa che per scrivere una frase decente bisogna tirare fuori cose inenarrabilmente orrende, insomma, per riuscire a raggiungere un minimo di qualità. Quindi questa consapevolezza è fondamentale per poter poi scrivere bene e comunque migliorare la propria scrittura. Quindi per noi è molto importante che l'autore metta la faccia in questo concorso e che quindi proponga suoi scritti e poi venga a leggerli pubblicamente durante la finalista, vergognandosene ovviamente, giusto? Certo, questo è lo scopo, poi è quello, vergognarsi del proprio premio, cioè prenderlo. Sì, anche se devo dire che gli autori peggiori, naturalmente in senso nobile in questo caso, sono quelli che invece rivendicavano profondamente la propria bruttezza, cioè dichiarando pubblicamente durante la finale che quello era il loro capolavoro. Quindi quanto più la vanagloria poi dello scritto veniva poi riproposta in qualche modo nella lettura e nella presentazione del proprio scritto, tanto più era premiato poi dal pubblico in sala il partecipante. Grazie Carolina Cutolo, è bella l'iniziativa. Vi ricordo il sito, che è ilraccontopiubrutto.blogspot.it. Grazie ancora, buona domenica. A voi. Allora, Pia, mi ricollego a quello che diceva Carolina. C'è qualche artista contemporaneo oppure del passato che così vanaglorioso da considerarsi straordinariamente bravo invece considerato brutto dalla critica? Non so se ti viene in mente. Perché... Allora, parlare delle personalità degli artisti è sempre complicato, mi linciano quando poi esco dallo studio, però, però quello che si può dire è che senza fare spesso, nomi magari, però no, sicuramente di artisti vanagloriosi come in tutte le categorie di creativi, cioè, che invece sono non moltissimi. Valgono, hai capito cosa voglio dire? Ecco. Sì, il problema è che poi adesso soprattutto è molto il mercato che premia, quindi ci sono gli artisti che sono considerati brutti o kitsch, di cattivo gusto, che magari hanno un grosso mercato, per cui c'è comunque, per loro si apre una grande scena di successo, però poi gli artisti sotto sotto i critici sotto sotto li criticano, questi artisti. Ci sono alcuni però che proprio invece giocano sul kitsch, perché per esempio Jeff Koons ha costruito una carriera fantasmagorica, ecco, sul cattivo gusto. Apriamo una parentesi, il kitsch, il cattivo gusto, che cos'è? Il kitsch e il cattivo gusto in realtà lo si riconosce quando lo si vede, come si diceva prima a proposito delle fiction, dove c'è un eccesso, no? Dove c'è un eccesso di ricerca della bellezza, si cade poi dall'altra parte, si cade nell'enfasi. Ma il cattivo gusto è anche il cattivo gusto degli oggetti, delle piccole cose di cattivo gusto, di gozzeniana memoria, e in arte questo entra moltissimo in maniera anche consapevole, perché alcune opere d'arte sono volutamente kitsch e vanno fortissimo, perché per esempio Koons ha fatto un intero ciclo di oggetti giganti che riproducono i famosi soprammobili della nonna, no? Quelli orrendi che nessuno vorrebbe tenere in casa. Koons li ha fatti a dimensione naturale, quindi ci sono questi orsetti di ceramica alti 1,90 m, ci sono dei gattini di maglia appesa che sono in realtà raccapriccianti, e però nel momento in cui, c'è anche, come la gondola dicevamo, d'oro di Venezia, non l'ha ancora fatta, no? Beh, c'è un Michael Jackson dorato che insomma che ci va molto vicino, sì. E che però è entrato nei musei, così come, sempre parlando della televisione e dell'arte, nei musei è entrato il quotidiano, quindi l'oggetto del quotidiano. Jeff Koons ha messo al MoMA i suoi aspirapolvere e i suoi palloni da basket, che sono considerati dei pezzi d'arte molto significativi della storia. Però capisci che a noi profani una cosa così ti fa un po' rabbrividire, perché poi dici, io a casa ne ho una valangola, anzi col trasloco li ho appena buttati via. Ma dove li tieni? Li tieni nello sgabuzzo? Invece in arte c'è un procedimento che si chiama framing, cioè che significa incorniciare, e nel momento in cui un artista incornicia un dettaglio, che può essere una scarpa da ginnastica puzzolente, o un pallone da basket, o anche un aspirapolvere della Hoover, in quel momento, come fin dai tempi di Duchamp, del suo urinatoio, in quel momento quella cosa diventa arte, perché il sistema la riconosce, un attore del sistema dell'arte dice questa è arte, e quindi quella è la validazione che serve. Quindi con tutte le cose che ho buttato via col trasloco potevo aprire un museo in realtà, bastava incorniciare qualunque delle cose che ho gettato. Perché non sono sicurissima. È lì che voglio arrivare, no? E voglio arrivare a quella differenza tra la quotidianità di una persona e invece la quotidianità di un artista, in questo caso lo metto tra virgolette. Lì il problema è proprio la certificazione, cioè quando è l'artista che a sua volta è riconosciuto nel mondo dell'arte a mettere il timbro di opera d'arte, allora a quel punto il sistema lo accetta. È successo per la prima volta storica con l'urinatoio che Marcel Duchamp ha portato in mostra nel 1917, che ha aperto l'epoca del ready made, cioè di un oggetto che è trovato già pronto e semplicemente etichettato dall'artista come opera d'arte. E che prima apparteneva alla vita quotidiana, anzi alle funzioni anche molto basse, certo, dell'uomo. Quindi. Scusa se faccio veramente il populista dell'arte, no, ma perché benissimo. L'arte contemporanea a volte è proprio difficile da comprendere da un punto di vista personale, poi alla sono fine, d'accordo. Cioè da persona che non conosce. Certo ti fa un po' arrabbiare, capito, che qualcuno possa essere stato artista perché mette gli aspirapolvere, come dici tu, incorniciati al MoMA, e qualcuno che invece che non è così stato artista aspirapolvere magari più belle esteticamente però questo fa un po' arrabbiare. Chiaramente è una discussione lunghissima e incomprensibile ai meno, cioè ai più, anzi dico meno perché conosciamo meno in questo senso, però è molto interessante. No, ma non credere, anche chi come me vive di arte contemporanea, sì, ne vede tantissima, ogni tanto un momento di rabbia e di rifiuto viene. Ce l'ha, sì, a me per esempio succede, ogni tanto mi vedo accanto ad un'opera incomprensibile, mi sento stupida, mi arrabbio perché mi sento stupida io, allora mi viene a dare dello stupido all'artista. È un meccanismo che appartiene a tutti, anche a chi dell'arte ha fatto un lavoro. È molto interessante, vero, perché così davvero si impara a conoscere. Il riposo del guerriero. A proposito poi di arte, vi ricordo tra un'ora circa Miro in 24 minuti, anche su Miro c'è da dire, perché insomma vedo che sorridi Pia, non è semplice. E la possibilità di portarvi a casa il catalogo della mostra Miro Poesia e Luce e il biglietto d'ingresso, dovete associare un fatto della vita di Miro, ma io vi aiuterò moltissimo, alla canzone che vi farò ascoltare. 800 24 00 24. C'è Gianni Stocchino intanto al telefono. Gianni, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Buona domenica. Gianni Stocchino è presidente del Circolo dei Lettori Miele Amaro di Cagliari, che ha pensato un'iniziativa molto interessante, ovvero il libro più brutto dell'anno, ovviamente del 2012. E voi l'avete assegnato. Adesso non dico niente a chi, sarai tu a raccontarci tutto. Come funziona questo meccanismo di considerazione dei libri, belli o brutti che siano? Allora, intanto l'operazione che abbiamo fatto è un po' rovesciata rispetto a quella che raccontava prima, Carolina, esatto, con il racconto più brutto. Nel senso che noi abbiamo pensato che intanto i libri, certo, sono belli e sono la nostra vita, noi siamo un'associazione di lettori e siamo nati per condividere il piacere della lettura. Dopodiché il libro non è sacro e esistono libri brutti. E abbiamo scelto, basandoci su recensioni, critiche, eccetera, 10 libri, secondo noi, brutti, dalle classifiche di vendita dei libri. Quindi, insomma, abbiamo scelto tra i bestseller 10 libri brutti e li abbiamo sottoposti, insomma, al giudizio dei lettori. Sono arrivati tanti voti e diciamo la classifica. Sì, la classifica l'abbiamo persa. Ecco, ci sei? Sei tornato, Gianni, scusa, l'abbiamo perso. Eccoci, allora la classifica ha vinto, ha stravinto, strameritando il titolo, io l'ho votato con convinzione, le 50 sfumature. Ecco, immaginavamo, insomma, cioè tu dici grande successo letterario, però alla fin fine è un libro brutto, secondo voi? Sì, è un libro brutto, secondo noi, adesso non so se possiamo essere... No, guarda, io non l'ho letto, non mi interessa neanche, perché normalmente io i libri che hanno così tanto successo non so perché ma li rifiuto proprio istintivamente, non lo so, perché è un fatto personale. Poi comunque non mi incuriosisce neanche come il tema, per cui non, niente, quindi non l'ho letto. Però vedo, Pia invece annuiva, non so come mai, Pia Capelli. No, io invece disapprovavo quello che dicevi tu, Stefano, nel senso che più una cosa è brutta e ha successo, e più bisogna provare a capirla, più bisogna leggerla, guardarla. Io non l'ho fatto, non avevo tempo da perdere. Ecco, può essere un bel esperimento. Allora, aprite una delle 1500 pagine della trilogia a caso e vi trovate in mezzo a un mondo fantascientifico, descritto con un linguaggio a parere di chi l'ha votato veramente imbarazzante. Ecco. E niente, adesso per esempio noi così a caso realmente abbiamo scelto di leggere un brano e di diffondere l'audio via web. Andate a circolodeilettori.it, questo è il sito, scusami, lo ricordo io perché non ti sentiamo benissimo, circolodeilettori.it. ecco, voi andate sul sito e andate. Senti, velocemente, Gianni, mi dici gli altri due in classifica, c'è cioè il podio, insomma, quindi al primo posto 50 sfumature di grigio, sì, al secondo posto chi troviamo? Al secondo posto Il palazzo e la piazza di Bruno Vespa. Sì. E al terzo posto un altro titolo imperdibile, Io ci credo, perché con la fede non mi sono arreso mai, di Albano. Ah beh, questo a me questo è il podio. Sai che a me è sfuggito questo. Non ce l'avevamo accorti che fosse uscito questo libro. Beh, ma ecco, insieme alla bottiglia di vino lo vendo. È stato in classifica, tanto ha venduto, ha stravenduto anche. Ah beh, ma non lo metto in dubbio assolutamente. Ma se c'era legato magari il CD o il vino o l'olio, io penso che abbia potuto vendere sicuramente. Grazie davvero, Gianni Stocchino. Buona domenica. Grazie a voi. Allora, il circolo dei lettori.it. Mi era sfuggito, Pia, questo. Anche a me, ma qui però c'è da chiederci. Sì. Ma sarà un giudizio sul libro? Sarà un giudizio sullo scrittore? Su Albano in veste di scrittore? Non so, poi bisogna sempre vedere un sacco di... se c'è un ghostwriter oppure se l'ha scritto veramente lui. Poi alla fine c'è anche quello. Beh, se ha preso un ghostwriter e poi è finito sul podio dei libri più brutti, è un'operazione... Esistono i ghost painter? Me lo sto inventando adesso. Ma certo che esistono i ghost painter. È una delle grandi polemiche della contemporaneità, ma non solo della contemporaneità, perché anche lo scultore bello per eccellenza, Canova, aveva una bottega, non faceva tutto lui dall'inizio alla fine. E il problema di oggi è che molti pittori non dipingono le loro opere. E la domanda è perfetta, perché è uno dei principi del brutto, dell'arte contemporanea, ma uno dei principi dell'arte contemporanea tout court, che è Damien Hirst, è famoso perché lui non dipinge i suoi quadri, ne ha dipinti pochissimi, e gli altri li affida a degli assistenti. E la cosa buffa è che a seconda dell'assistente che l'ha dipinto, il quadro ha più o meno valore anche sul mercato. Ma la sua produzione è stata per molti anni enorme, proprio perché lui spiegava come andava fatto un quadro. Erano dei quadri che usavano anche dei metodi meccanici, come gli spin painting, che venivano, in cui il colore veniva gettato su una tela che girava e quindi assumeva delle forme anche imprevedibili, o gli spot painting, che sono fatti di pallini di colore tutti messi in ordine. E questi quadri, è molto famosa la storia, non li ha dipinti lui se non in minima parte, se non i primissimi della serie, tutti gli altri li hanno fatti i suoi assistenti. E una grandissima parte dei pittori contemporanei ha degli assistenti di studio che non solo preparano la tela, ma poi spesso anche dipingono effettivamente il quadro. Quindi in realtà fanno la regia, diciamo, no? Come sì, un c'è regista. Una regia. Perché altri poi, invece, come Cattelan, hanno soltanto l'idea, quindi hanno un'idea e poi hanno tutto un enorme uno staff sì, sparso per il mondo, di persone che fanno le sculture per loro, che fanno le installazioni per loro. E io mi sono trovata a intervistarne parecchi di questi artisti. Uno mi si è offeso, uno che appartiene come Damien Hirst al Young British Art, Mark Quinn, che fa lo scultore e fa anche il pittore e fa delle sculture anche interessanti, ma io sapevo che non le scolpiva lui, e quando gli ho chiesto di spiegarmi questa sua scelta di far realizzare le sculture a qualcun altro, si è parecchio risentito, e prima di mollarmi lì a metà intervista mi ha detto: ma io quando vado al ristorante non voglio cucinare io, perché pretendete che io debba scolpire da solo le mie sculture quando posso dare un'idea e qualcun altro le fa meglio. Quindi questa è una una questione abbastanza annosa. Sì, interessante, sì. Però perché a questo punto posso essere veramente artista anch'io, capito? Certo, cioè, devi avere l'idea, devi fare una cosa che nessuno ha mai fatto prima. Ne ho tante, guarda. E poi devi riuscire in quell'operazione difficilissima, che è quella di farti riconoscere dal sistema, cioè essere accettato. Senti, io siccome non riusciamo a trovare l'ospite, ah sì, ce l'abbiamo in questo momento, sono riuscito a recuperarlo, perché c'è, cioè, interessante anche l'arte che ha a che fare con la carne, l'avevi accennata prima. Volevo chiudere questa prima ora con Fabio Di Gioia. Pronto Fabio? Buongiorno, buona domenica. Buongiorno a voi. Ecco, allora parliamo di questa mostra che è il Body Words, che rappresenta il mondo del corpo umano. È una mostra che ha fatto molto discutere in questo momento, perché i corpi umani che sono visibili sono reali, sono veri. Sì, appartengono a persone che lo hanno donato. Body Words è la mostra originale, quella che è stata creata dal medico tedesco von Hagens, che su un brevetto il suo ha creato la plastinazione, quindi la possibilità di conservare i corpi, i tessuti con dei polimeri di silicone attraverso delle procedure molto molto complesse, e ne ha fatto delle mostre perché si è reso conto del potenziale dal punto di vista proprio visivo, e quindi il pubblico si è appassionato e ha capito l'anatomia molto più che sui libri. E quello che faceva forse Leonardo da Vinci alla fine, no? Per capire, non la mostrava alla gente, però in qualche modo era l'unico, non soltanto lui, poi siamo in generale nel Cinquecento era così, era l'unico modo per capirla veramente, aprire, certo, e guardare. Per cui la possibilità invece di guardarla tu è sicuramente affascinante, anche se brutta o raccapricciante da un certo punto di vista, no Fabio? Beh, dobbiamo essere un po' seri con noi stessi, sì, perché intanto la medicina ha avuto bisogno e ha ancora bisogno molto di esplorare per forza, siamo sotto la pelle, e se sappiamo come siamo fatti in maniera, diciamo, dal punto di vista dell'organismo, però a livello ultramicroscopico, diciamo così, ci sono ancora delle scoperte che si stanno facendo, quindi questo va a vantaggio della collettività. Molto spesso nel progresso umano il vantaggio della collettività passa attraverso degli stadi che si possono più o meno discutere. Richiamavate Leonardo? Giustissimo. Leonardo trafugava cadaveri, si procurava dei corpi perché non c'erano anche delle legislazioni che prevedevano un certo tipo di reato per questo. È discutibile dal punto di vista morale, etico, però lui lo faceva. Ed è stato un grande passaggio scientifico quello che Leonardo ha. Infatti lo dimostra anche comunque il grande successo, perché so che questa mostra, partita in un certo modo, così anche con un po' di discussione, in realtà sta avendo un successo straordinario. E io purtroppo ti devo salutare, Fabio Di Gioia, però vi ricordo la mostra della Fabbrica del Vapore a Milano fino al 17 febbraio, Body Words si chiama. Ti ringrazio Fabio Di Gioia, buona domenica. A voi, grazie. Grazie, ciao. Il riposo del guerriero. Il bello del brutto, questa è la puntata di oggi, ancora buona domenica da Stefano Gallarini, 11:06 minuti, il riposo del guerriero su Radio 24. Allora, Pia Capelli, che è una giornalista che si occupa di arte contemporanea e filosofia dell'arte, che è mia ospite, volevo che discutesse questa frase che arriva da un ascoltatore. L'arte piace nel momento in cui il suo autore riesce con la sua opera a toccare le corde emotive di chi lo sta osservando. Sei d'accordo? Sì, sono d'accordo. Sono d'accordo, anche se non sempre le corde che l'arte vuole toccare sono quelle emotive. Ci sono anche delle forme d'arte che preferiscono toccare delle corde intellettuali, quindi mettersi in contatto da un punto di vista più mentale. Però io ho sempre pensato che un'opera d'arte, per dirmi qualcosa, da qualche parte mi debba toccare. Mi tocca il cuore o la pancia o il cervello. Se rimango totalmente inerte, cioè se non mi sento stimolata per nulla, per me quell'opera lì è fallita. Cioè proprio quello che dicevamo prima, è l'opera che in realtà è silenziosa, non mi dice niente. Quindi io sono d'accordo che chi va a vedere l'arte può chiedere questo, può esigere questo dall'opera, di entrare in una forma di risonanza con l'opera, che ci sia una forma di comunicazione. Se questa viene meno, naturalmente è lì il problema. Prima parlavo, abbiamo parlato con Fabio Di Gioia, che è il curatore della mostra Body Wars, quindi questi corpi veri che possono essere guardati all'interno. E volevo dirvi una cosa in anteprima, che gli ultimi due weekend, la mostra è fino al 17 febbraio, gli ultimi due weekend, il sabato notte sarà aperta la mostra fino alle 8 del mattino, quindi la notte, sì, tu dicevi un nuovo gotico, no? Dicevo, è il massimo del dark. Io andrò infatti di notte. Il cadavere squartato nella notte, ci saranno delle code lunghissime. Io spero di non farla, nel senso che no, io spero che la coda ci sia, perché nel senso che quanta mattina, la domenica mattina devo lavorare, per cui a questo punto però posso fare la famosa dritta. Puoi, no? Puoi tirarla lunga e arrivare qua con gli occhi pallati dopo aver visto cadaveri per tutta la notte. Potrei fare così. E tra l'altro su artisti che hanno avuto a che fare con la carne, ce ne sono moltissimi. Molti, no? Sì. Prima quando chiacchieravamo parlavamo di Lucian Freud, sì, e della sua pittura della carne, no? Quella pittura che proprio va anche al di là della pelle, che fa vedere le vene, fa vedere le occhiaie, fa vedere i peli, fa vedere la vecchiaia, il grasso e quindi anche i corpi abbandonati. E certo, qui si apre tutto il capitolo della carne, certo, disegnati in un modo straordinario, magnifico, dal mio punto di vista magnifico, quindi bellissimi anche quando il corpo ritratto è brutto. Era quello che si diceva prima, cioè che si può avere un piacere estetico pazzesco, un'esperienza bellissima anche quando il soggetto è brutto, perché poi in realtà è il modo in cui ci comunica, il modo in cui noi ci agganciamo a quel corpo che diventa piacevole, che ci tocca, che diventa, le corde, l'emotività, sì, che diventa incredibilmente affascinante e suggestivo. Allora, io pensando al brutto, senza offesa per Annalisè, che Annalisè, buona domenica intanto. Buona domenica a voi. Sorriderà. Ho pensato a un mestiere associato al brutto nel senso proprio brutto estetico, e mi è venuto in mente il bibliotecario, no? Perché il topo da biblioteca lo vedi sempre con gli occhiali spessi, sempre un po' curvo, no? Così la bibliotecaria non te l'hai mai immagini bella, alta e tante, ma è magari un po' vecchia, un po', no? Allora, nell'immaginario collettivo, la bibliotecaria o il bibliotecario, anche nell'Eye Detector, che è un vecchio gioco, c'era la bibliotecaria ed era una donna arruffata, vecchia, con gli occhiali. Tu hai gli occhiali spessi, Annalisè, buona domenica. Naturalmente sì. Sì, certo. Buona domenica. Naso... Infatti volevo dire che per buona educazione dovrei ringraziare di essere stata invitata a parlare in questa trasmissione. In realtà sono un po' in imbarazzo perché devo parlare, contrariamente agli ospiti precedenti che hanno parlato del brutto e del bello, ma qualcosa di esterno a loro, io devo parlare invece in prima persona di una professione che svolgo, e quindi in questo momento sto rappresentando un po' la classe dei bibliotecari. Ed è vero quello che stai dicendo, che nell'immaginario collettivo effettivamente la bibliotecaria, soprattutto la bibliotecaria donna, ha questo immaginario di poca seduzione, di poca avvenenza. Forse un po' diversamente il bibliotecario maschio, perlomeno nella letteratura e nel cinema, spesso veste abiti monastici ed è rappresentato in... Se è più una sceta, ecco, diciamo, sì. Come, scusa? L'uomo è più una sceta, è mostrato più come una sceta, no? Con qualcuno che, esatto, vive al di sopra di tutto. È un concetto. Invece la donna no, è brutta, tout court. La donna no, anche... così è una figura più moderna rispetto al bibliotecario maschio, ma ancora oggi, ripeto, nella letteratura, ma anche nelle poche rappresentazioni, devo dire, cinematografiche che io perlomeno riesco a ricordare, è sempre raccontata così come tu dici. Un piccolo libro che ho letto recentemente, La custode di libri della Vivrée, parla proprio di una bibliotecaria acida, zittella, soprattutto incapace di avere relazioni umane, ma ancora di più folle nel fatto che in queste biblioteche, che si immaginano, ma vi assicuro non è così, addirittura i potenziali utenti possono causare ansia perché potrebbero distruggere quel silenzio fantastico che nelle biblioteche si immagina che ci sia. Ecco, invece, ma non è così. Esatto, invece com'è il lavoro della bibliotecaria? Cosa fa e com'è nato, insomma, la tua... Allora, il lavoro della bibliotecaria, del bibliotecario oggi, bisogna scinderlo, secondo me, dalla grande divisione che esiste fra biblioteche. Ci sono le biblioteche di conservazione che tutti un po' immaginano, e quindi probabilmente il bibliotecario ancora fa un lavoro di tipo museale, di conservazione, di archiviazione, di catalogazione. Nelle biblioteche, come quella di Cesate, dove io lavoro, che sono poi le biblioteche pubbliche, in realtà il lavoro è diverso, sono diventate centri di aggregazione, luoghi possibili per tutti, dove soprattutto a latere del prestito del libro, della ricerca bibliografica o del reference, cioè dei consigli che si danno al lettore o a colui che fa ricerche, in realtà c'è tutta una attività culturale importante che viene erogata sia per l'infanzia che per gli adulti che per i nuovi pubblici che sono, per quanto riguarda l'Internet di Milano dove io lavoro, soprattutto le nuove culture che sono i nostri nuovi utenti. Per cui in realtà il bibliotecario si da topo di biblioteca colloquiale spesso è uscito nel mondo, ha guardato il mondo e soprattutto si occupa di progettazione, di marketing territoriale, di ricerca fondi per realizzare gli eventi che possono essere poi effettivamente svolti all'interno delle biblioteche, perché peraltro il bibliotecario, non so se in questa trasmissione si è anche pensato a questo, ma incolla nella sua immagine due cose orrende: il dipendente pubblico oltre che il bibliotecario noioso, polveroso e colloquiale spesso, e questo è veramente il peggio del peggio. Però se si vuole, se qualcuno ha interesse a sviluppare questa un'attenzione nei confronti di questa professione così bistrattata, in realtà si possono fare veramente tante cose, avendone voglia ci sono davvero tante possibilità. Sei stata molto chiara e devo dire che un po' di voglia ce l'hai fatta venire. Tu quanti anni hai, Anna? Non pochi, 50. Vabbè, 50 devo dire, alla voce te ne davamo almeno 20 di meno. Ecco, vuol dire che, no, vuol dire che il mestiere di bibliotecario ha quanto, assolutamente sì, altro che, abbiamo sfatato finalmente un preconcetto. Grazie Anna Lisè, buona domenica. Grazie a voi, buona domenica. Grazie, Pia Capelli, è finito il nostro tempo purtroppo a disposizione. Non mi YouTube che ti inviterò a cena e ti farò raccontare qualunque cosa, quindi preparati, tu non mangerai probabilmente, che sarai costretto a parlare. Molti ascoltatori chiedono un tuo contatto personale per chiederti delle cose, no, non pensare, cioè sull'arte ovviamente, e il resto non lo so, non è affar mio. E cosa possiamo indicare? Hai un sito, hai una mail che vuoi dare, un profilo di Facebook? Come possiamo raggiungerti? Sì, ho un profilo di Facebook che è Pia Capelli Milano, perché penso che ce ne siano delle altre di Pia in giro, e ho un sito che è in progress, quindi tra poco sarà online, che è piacapelli.com. Che altro? E niente, è il modo quindi sì, per no, raggiungere. Se mi mandano un messaggio su Facebook poi io rispondo. Tu, l'ultima domanda è personale. Tu hai dipingi piuttosto che, non so, sei una scultrice anche nel tuo... oppure niente di tutto questo? No, io mi astengo anche se amavo molto disegnare un tempo. Sì. In realtà mi astengo, mi sono accorta che forse lo faccio anche per principio, perché troverei difficile proporre una mia arte e poi andare a criticare quell'altrui, però... Questa è una scelta mia personale, perché ci sono invece dei critici d'arte che sono partiti come artisti e che infatti poi vengono molto, come dire, questa è un'arma che loro porgono agli avversari, e ci sono anche tuttora dei critici d'arte che fanno gli artisti, fanno i fotografi, fanno i pittori. Tu insegni anche? Io insegno in un'accademia privata milanese che è l'Accademia Marangoni, che è un'accademia di moda, e mi occupo di semiotica delle immagini, ma anche di moda del futuro. Sì, giusto? Di moda del futuro. E quindi in una delle prossime puntate sicuramente ti avremo ospite e racconteremo come saremo. Perché sai che nei film degli anni 60 oggi abbiamo dovuto essere tutti vestiti d'argento, tipo, no? Sai, col Domopac, perché certo. Tutti immaginati così, invece a quanto pare non è successo. E vorrei invece capire da te come saremo, forse con... Va bene, ne parliamo. Qui sappiamo i vestiti che dobbiamo buttare e quelli che invece dobbiamo conservare. Se mi inviti anche su un altro argomento mi togli il dubbio che mi era rimasto di essere stata invitata perché ero in tema con l'argomento della giornata. No, assolutamente, sei stata molto brava. Grazie davvero Pia Capelli. Grazie a te, Stefano. E complimenti per il tuo mestiere. Tra poco avremo giochi e videogiochi e si parlerà di giochi brutti ma chiaramente molto molto belli, ma adesso aggiornamenti sul traffico. Il riposo del guerriero. Giochi e videogiochi. Eccoci nel nostro spazio dedicato al mondo dei giochi e dei videogiochi. Andrea Ligabue, il nostro ludologo. Ciao Andrea, buona giornata, buona domenica. Ciao Stefano, buona domenica a tutti. Allora, anche nei giochi ci saranno quei giochi brutti che però piacciono, che sono brutti non so per quale ragione, ce lo direi tu. No, allora, oggi, visto il tema della trasmissione, ho pensato di parlarvi di due giochi che hanno come protagonisti dei mostri. Eccoli là. Allora, uno si chiama Micro Monsters ed è un gioco molto carino perché praticamente è una rivisitazione del vecchio gioco delle pulci. Ogni giocatore ha a sua disposizione un esercito formato da 8 pulci e una base. Nel suo turno di gioco lancia il dado e il dado indica quale dei suoi mostri può muovere. E deve riuscire a, proprio meccanismo del gioco delle pulci, a o uccidere i pezzi degli avversari andandoci sopra o sconfiggere la base nemica. Ogni popolo, ci sono 4 popoli nella scatola, che sono le turbo tartarughe, gli alligamobili, i balenatteri e gli orsopodi. Ogni popolo ha un potere speciale che si attiva con una delle facce del dado. Quando si viene con la faccia lì, oltre alla mossa normale, si può anche usare il potere speciale. È un gioco molto simpatico, adatto, diciamo, già ai bambini a partire dai 5-6 anni, ed è, diciamo, un gioco a ponte tra un gioco tradizionale, le pulci, e un vero gioco da tavolo. Ecco, ma il gioco delle pulci tradizionale, scusa, è quello con i dischetti che bisogna muovere facendoli scattare con una linguetta di plastica, una cosa, esatto, del genere, esatto, un bastoncino. Quindi, esatto, ognuno al suo popolo, devi, nel tuo turno fai saltare uno dei tuoi pezzi, se riesci a saltare sopra un pezzo dell'avversario lo elimini, se riesci a saltare sopra la base dell'avversario gli fai un danno, dopo 8 danni la base dell'avversario è eliminata e tu vinci la partita, si, ecco, può giocare fino a 4. Sì. Ecco, c'è una plancia di gioco oppure la plancia è il pavimento, tipo? No, la plancia è il pavimento, anzi un tappeto idealmente, perché sì, sul pavimento normale non saltano, quindi certo, un panno verde, un tappeto, una tovaglia, insomma, una cosa del genere. Quindi uno può giocarlo, appunto, sì, proprio in casa, nello spazio dove si trova, e divertirsi così. Come si chiama questo gioco, scusami? Micro Monsters. Ed è distribuito in Italia da Red Glove, come casa editrice. Altri mostri invece in gioco? Altri mostri invece, vi parlo di King of Tokyo, che anche questo è in un certo senso una rivisitazione di un gioco classico, perché è un gioco di dadi in cui ogni giocatore impersona un mostro stile mostri giapponesi, cioè Godzilla, Gamera, così. Sì, E lo scopo è riuscire a distruggere la città di Tokyo o a sconfiggere gli altri mostri. Nel proprio turno di gioco vengono lanciati questi 6 dadi speciali e ci sono alcune combinazioni che danno punti, più ci sono delle facce particolari che sono le zampe che permettono di attaccare gli altri mostri, cioè in base a quante zampe uno fa tira degli schiaffoni agli altri mostri. In più ci sono una faccia speciale che è una faccia che si chiama dado mutazione, che permette al mostro di accumulare punti mutazione con cui si possono comprare delle carte che danno dei poteri particolari al proprio mostro. E lo scopo del gioco è riuscire ad arrivare a 20 punti, e i 20 punti si fanno o con le combinazioni o, diciamo, entrando nella città di Tokyo, cioè quando si riesce a sconfiggere il mostro che c'è dentro Tokyo, ci si entra dentro, oppure con delle carte speciali, oppure l'altra maniera di vincere è sconfiggere tutti gli altri mostri, cioè quando uno è riuscito a fare 10 danni a ognuno degli altri mostri che sono fuori dal gioco, vince la partita. È un gioco molto intelligente, cioè nel senso che comunque è basato su un meccanismo di dadi, ma ci sono delle meccaniche abbastanza intelligenti. L'autore è un autore molto famoso, perché è Richard Garfield, che è l'inventore di Magic the Gathering, che è, diciamo, il gioco di carte collezionabile più famoso al mondo. Sì, indubbiamente più famoso al mondo. Poi Magic è arrivato anche su console, però rispettando la tecnica delle carte, ovviamente. Esatto. Questo era King of Tokyo, si chiama così. Allora, Andrea, c'è un gioco che tu consideri brutto per qualche ragione, ma che comunque è affascinante e ha avuto successo? Ma guarda, ci sono, se io penso a tutti quelli che sono alcuni giochi, diciamo, di tanti anni fa, che erano proprio brutti a livello di materiali, di pedine, si giocava con delle pedine di cartone, però alcuni di questi giochi erano veramente belli. Adesso, se devo pensare specificatamente a un gioco che dico brutto, faccio anche fatica, anche perché se un gioco è veramente brutto lo rimuovo dalla mia memoria e non lo gioco non più. Esiste, quindi, okay. No, quindi diciamo, adesso fortunatamente i giochi di qualità hanno dei materiali veramente veramente buoni, veramente belli. Ecco, quindi il brutto erano più che altro i materiali. Grazie Andrea Ligabue, ci sentiamo domenica prossima, buona giornata. Grazie Stefano, buona domenica a tutti, ciao. E adesso è arrivato il momento di parlare invece di videogiochi. C'è Marco Accordi al telefono. Ciao Marco. Ciao Stefano. Allora, Marco è uno dei fondatori di Vigamus, che è uno dei musei dei videogiochi italiani, e questo è a Roma, aperto non da molto, tra l'altro. Aperto il 20 ottobre del 2012. Adesso, quindi siamo freschissimi. Allora, Marco, museo del videogioco, perché comunque videogioco è cultura, questo l'abbiamo detto, stradetto, lo continuerò a dire da quando ho cominciato ad occuparmi di questo, di questo mondo ormai... E ce lo ricordiamo bene. Sì, ormai 30 anni fa, e, anzi forse un pochino anche di più, comunque sia, fino ad oggi quindi continuo a sostenerlo, è diventato anche un museo. Che cosa succede, dove è aperto, gli orari, insomma come funziona? È un museo vero e proprio che è inserito in tutti i circuiti museali, che è riconosciuto dalle istituzioni, è aperto tutti i giorni, dal martedì alla domenica, dalle 10 del mattino fino alle 8 di sera, tranne il lunedì che è il nostro giorno di riposo, e svolge tante attività. Ecco, noi siamo molto attivi con presentazioni, eventi dedicati agli appassionati di tutti i generi, di tutti i giochi. Ecco, quindi c'è un calendario, diciamo così, di iniziative alle quali è possibile partecipare. Marco, c'è un prezzo di un biglietto? Si possono provare, non so, le console o i vecchi videogiochi? Avete, allora, cosa c'è? Cosa troviamo all'interno? Ecco, soltanto delle teche con delle scatole, o possiamo anche provare? Perché poi il videogioco, no, il bello, no, no, no, è no, Stefano, figurati, assolutamente. Un museo del videogioco deve essere per prima cosa interattiva. Il biglietto, come gran parte dei musei, c'è, è allineato con quello dell'unico altro museo europeo di videogiochi, che è quello di Berlino, ed è di 8,05 euro per i ridotti. E dentro al museo, in completamente free play ovviamente, ci sono vari coin-op originali ai quali si può giocare, tra cui lo Space Invaders giapponese mandatoci dalla Taito. Quindi l'originale Space Invaders, sono dei primissimi videogiochi, sì, da bar. Che aveva quello degli alienini che invadevano, certo, la Terra, che tra l'altro fece proprio un delirio di massa quando uscì in tutto il mondo, e tanti altri coin-op, anche i progenitori dei coin-op, quindi un flipper e un gioco meccanico, e poi moltissime postazioni console, oltre 15 postazioni console d'epoca per giocare tutti i vecchi classici, per cui si gioca, si guarda e legge un percorso che segue l'industria dalle origini fino alla metà degli anni Ottanta, quindi proprio i primordi, e con video e insomma tanti materiali multimediali, e poi c'è una quest'ampia sala conferenze dove facciamo molti eventi. Posso dirtene un paio nel calendario? Come no, certo, sì. Per esempio il 9 dedichiamo, questo è molto nerd, un giorno ai fan dell'Intellivision, una delle prime console nei primi anni Ottanta, che era prodotta dalla Mattel, la casa delle Barbie. E poi invece il 10 abbiamo un evento dedicato a Ken il Guerriero, un popolare cartone animato giapponese di cui esce un nuovo videogame. E poi ancora il 16 un evento dedicato a tutti i fan di Ritorno al Futuro, sempre tra il film e i videogiochi. Ecco Marco, questi eventi ai quali è possibile assistere fanno parte dell'ingresso del museo, cioè si pagano gli 8 euro dell'ingresso per assistere, sono gratuiti, hanno un prezzo a parte? No, il prezzo è solo quello del biglietto ed è il prezzo che permette al museo di sopravvivere con tutto il suo staff e tutte le sue attività, perché non abbiamo, diciamo, non godiamo di altri tipi di benefici o privilegi, quindi ci sosteniamo da soli. E però con il prezzo del biglietto dentro si può guardare, si può stare quanto si vuole, si può giocare a qualsiasi gioco e assistere e partecipare a tutti gli eventi e anche vincere numerosi premi, tra cui i videogiochi che noi mettiamo in palio tutte le settimane. Ecco, benissimo, allora siamo al Vigamus, questo è il nome, siamo a Roma, e il sito, Marco? È molto semplice, www.vigamus.com, e ci trovate anche sui vari social network. Grazie Marco Accordi, ciao, buona domenica, a presto. Grazie Stefano, ciao, buona domenica. E da Roma ci spostiamo, invece c'è Michela De Rosa, una delle fondatrici di La Mecca del Videogioco, è un altro piccolo museo. Buongiorno Michela, buona domenica. Buongiorno e buona domenica a tutti. Allora Michela, voi dove siete? Dentro una scuola invece? Come funziona, no, La Mecca del Videogioco? Siamo dentro una scuola, sì. No. È uno stabile che ospita anche la scuola, nonché la biblioteca, sì. E il museo ha un piano dedicato, quindi non è all'interno della scuola, è semplicemente nello stesso stabile. Ho capito, allora voi invece agite in modo un po' diverso, credo che voi non abbiate un prezzo di biglietto d'ingresso. Assolutamente, l'ingresso è gratuito, si gioca gratuitamente, anche perché il museo nasce come iniziativa personale di volontariato, e infatti noi tutti mettiamo a disposizione prima di tutto la collezione che attualmente espone oltre 700 pezzi, per buona parte corredati da descrizione. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro di ricerca, tra virgolette, museale, no? Sì. Per giustificare appunto il motivo per cui una persona debba interessarsi a quello che è esposto, e abbiamo fatto una cosa un po' particolare, cioè non tanto schede tecniche, quelle ci sono di approfondimento, se uno ne vuole sapere di più c'è un rimando con un numerino che ti rimanda a un raccoglitore dove puoi avere ancora più informazioni, ma ogni pezzo è accompagnato da una brevissima scheda, ironica tra l'altro, abbiamo voluto fare una cosa un po' ironica, che metta in risalto la caratteristica di questo pezzo in modo da interessare sia l'appassionato ovviamente, ma anche che ne so, un accompagnatore, certo, o chi ci capita per caso che non ha nessun magari interesse per la storia del videogioco, però cavolo, solo perché Mario si chiama Mario, cose di questo genere. Può essere interessato. Ecco, sì. Io tra l'altro mi vieni molto incontro in questo senso, perché io ritengo che i videogiochi siano un'altra cosa rispetto a quello che tutti banalmente si possa pensare, e credo anch'io che sia necessario trovare delle chiavi per poter cercare di parlare di videogiochi anche a un pubblico che non li conosce affatto. E di questo sono molto d'accordo con te, Michela De Rosa. Tu all'inizio della tua chiacchierata dicevi perché abbiamo deciso di trovare dei punti che possano affascinare un pubblico e dargli una motivazione per venire a vedere un museo di questo genere. Uno di questi punti qual è, Michela? Ma ti facevo l'esempio del perché Mario si chiama Mario. Ti faccio proprio questo esempio perché è un gioco che ha una storia, una vita lunghissima, no? I bambini di oggi lo giocano in una versione ovviamente più moderna, però ci ha accompagnato nella nostra adolescenza. Ecco, tu quindi dici le curiosità che riguardano questo mondo sono quelle che potrebbero affascinare anche un pubblico di non videogiocatori. Tra l'altro voi fate anche voi organizzate delle conferenze perché il videogioco sia vissuto anche come ad esempio uno strumento di lavoro, un modo per guadagnarsi da vivere, faccio un esempio. Abbiamo fatto proprio ieri sabato un incontro con un professore italiano di origine ma che lavora per l'Università di Singapore, quindi è tornato da Singapore per qualche giorno ed è venuto a fare una conferenza da noi sulla storia del videogioco, ma in senso sia di curiosità ovviamente, ma anche di sociologico e di approccio lavorativo. Cioè, perché studiare la storia del videogioco? Perché ci può insegnare qualcosa anche a livello professionale, cioè come approcciare il mondo aziendale imparando dagli errori o dai successi che ci sono stati nel mondo dei videogiochi, perché comunque è un tipo di lavoro anche abbastanza recente, però anche molto creativo, ricco di alti e bassi, un po' tutto da inventare, no? Come spesso capita, magari si pensa che già tutto è stato inventato e poi invece ogni giorno c'è qualcosa di nuovo che salta fuori. Ecco, allora voi dove siete fisicamente? Allora, fisicamente ci troviamo in provincia di Genova, sì, a Gattorna, e attualmente, come dicevo, essendo tutto volontariato, siamo aperti sempre l'ultimo sabato del mese, però siamo aperti poi visite, quindi soprattutto se uno vuole fare una visita di gruppo basta che scuole o... Certo, bisogna semplicemente organizzare l'apertura dello spazio. Sì. Allora io vi ricordo il sito per avere tutte le informazioni e anche chiedere l'apertura dello spazio nel caso non possiate andare l'ultimo sabato del mese. Il sito è questo: www.lameccadelvideogioco.it. Grazie Michela De Rosa, buona domenica. Grazie e complimenti. Voi. Ecco, devo fare anche una precisazione dovuta, perché la Mecca del videogioco comunque sia è un'iniziativa, anche se si è definita museo, perché formalmente non possiede i riconoscimenti istituzionali di museo e non rispetta neanche i requisiti museali richiesti dalla regione Liguria, e quindi è un'iniziativa lodevolissima, ovviamente, chiamiamolo così, amatoriale, però non è un museo. Ecco, il museo invece vero e proprio è Vigamus, quello di Roma, che è il primo museo del videogioco in Italia. Prima delle previsioni del tempo, volevo rispondere a Barbara di Torino che scrive: ma perché nei giochi bisogna sempre distruggere, non invece costruire? Questo influenza l'attitudine dei bambini verso la vita, non pensate, non è proprio così, Barbara, ne parleremo sicuramente anche col nostro ludologo nella prossima puntata. Il riposo del guerriero. Senti chi parla. Oggi parliamo noi invece, vediamo come. Francesco Dragotto, ciao, buona domenica. Buona domenica e buongiorno. Allora, influenzatissima Francesca Dragotto e tra l'altro così l'influenza è un termine astrologico, no? Perché deriva dalla cattiva influenza dei pianeti. Quindi noi usiamo ancora dei termini astrologici per dire qualcosa che niente ha più a che fare con l'astrologia, ma che originariamente invece aveva a che fare con questa disciplina. Detto questo, io così sorrido per il fatto che Francesca oggi, parlando di brutte parole, al posto di analizzare le parole, ha pensato a quali potessero essere le parole brutte, cioè brutte per quale motivo, punto di domanda, dico bene? Dici bene, perché iniziando a riflettere su questo argomento mi sono resa conto, anche andando così a curiosare in giro per la rete, che l'oggetto del discorso era tutt'altro che chiaro e univoco. L'associazione bruttolingua evoca soluzioni diverse, interpretazioni diverse a seconda del parlante. Ecco, io sorrido un po' perché durante il mio esame di maturità scientifica io scelsi uno dei titoli del tema, non ricordo quale fosse, e al posto di parlare del tema in sé, ho cominciato a disquisire sul titolo che si prestava a diverse interpretazioni, ok? Esattamente come hai fatto tu. Succede questo, che il mio presidente di commissione, che era quello di italiano, mi diede un'insufficienza. Il tema era scritto bene, secondo tutti, fra l'altro, anche perché a me scrivere piace, credo di cavarmela comunque degnamente, ma invece non ha apprezzato il fatto che mi fossi messo a disquisire sul titolo. Cioè, non, questa cosa non gli è piaciuta, allora mi ha dato un'insufficienza. Capisci? Ecco perché sorrido, perché a volte gli stessi professori, e tu lo sei, non capiscono l'intento. Tu invece l'avresti capito e magari mi avresti dato un bel 60 sessantesimi all'epoca, ecco, per questa idea. I nostri tempi, volevo essere voti in sessantesimi. Esatto, volevo essere creativo e invece sono stato considerato un cretino, questo è successo. Allora, tu invece hai fatto la stessa cosa, ma io ti considero una creativa. Ecco, oh, quindi... meno male, non una cretina. No, assolutamente no. Allora, brutti, scusate, insomma, questo inizio così, però mi piaceva raccontarvelo. Allora, le brutte parole quali possono essere, per esempio? Oh, quindi andiamo sulle tracce del brutto, perché come dici, la maggior parte, quindi sono molte persone che pensano senza esitazione alle brutte parole, quindi parolacce, tutte quelle forme che l'etichetta impone di evitare, che siano parole, che siano locuzioni complesse, tutto ciò che è di carattere osceno, immorale, offensivo, e compresa la stessa parola brutto che ci sentiamo interdetti ad utilizzare, soprattutto in presenza di qualcuno che riteniamo brutto e che tendiamo con un procedimento retorico che si chiama litote a sostituire con la negazione del suo contrario, non bello, per non apparire maleducati. Ecco, allora questo è un modo. Poi invece il brutto può essere qualcos'altro. Beh sì, c'è chi si pone nell'ottica del significato delle parole che classifica come brutte oppure come belle a seconda di ciò a cui le parole stesse rinviano. Quindi molto banalmente c'è chi pensa a parole come guerra, odio, cattiveria per quanto riguarda la bruttezza o anche appunto lo stesso brutto, oppure a parole come amore, amicizia, gioia, infanzia per quanto riguarda il bello. A questo proposito però volevo precisare una cosa, che al di là di un insieme di parole che tanti sono propensi a ritenere brutte, ci sono anche delle parole che non hanno assolutamente nulla di brutto, penso a primavera, che per i parlanti che ad esempio soffrono di allergia sono comunque associate all'idea del brutto per ovvie ragioni di associazione mentale, perché chi in primavera non sta bene è chiaro che non può avere una concezione positiva della primavera. Ci sono utenti in rete che ad esempio tra le parole brutte annoverano grasso, bilancio, obesità, dieta, perché naturalmente si tratta della loro idea del brutto, che passa attraverso le parole ma che con le parole in sé non ha a che vedere. Ecco, invece quando parlate con Francesca Dragotto, se dite le parole brutte sono quelle che hanno un suono invece che non piace. Sì, esatto, io ad esempio spesso vengo guardata in maniera strana perché dico che marcescente è una parola bellissima, a me piace sinceramente la successione fonica di marcescente, piace tantissimo, tantissimo, così come quella di incarognito. Naturalmente non sono l'unica, non sto parlando di fonosimbolismo, ovvero della ragione per cui ad esempio le parole nino evocano la sensazione di piccolo, di grazioso, sto parlando di un'apparente assenza di ragione che ci fa sentire come piacevoli alcune parole e come invece brutte altre parole. Ad esempio, c'è chi ritiene belle parole pantofola, inchiostro, coltello, tutte attestazioni che ho trovato in rete, perché si parla molto di brutte parole, oppure chi al contrario trova belle parole come, che so, brutaglia e così via. Ecco, quindi anche il suono, insomma, può essere giudicato brutto o bello, ma ancora brutto è, può ricordare quelle parole che sono difficili da pronunciare. Beh sì, in questo caso la lista è davvero lunga, ci troviamo tutte quelle parole che hanno nessi per lo più consonantici che creano molte difficoltà articolatorie. Parliamo ad esempio di abbarbicato, paralipomeni, perorare, mausoleo. Naturalmente rientrano in questo ambito sia quelle di difficile pronuncia sia quelle di significato oscuro. I parlanti spesso mettono queste due cose sullo stesso piano. E infine brutto è assimilato invece a scorretto, vero? Sì. Sì, con un atteggiamento tipico della grammatica normativa viene bollato come brutto tutto quello che confligge appunto con le varietà più alte della lingua e con la stessa grammatica normativa. Gli esempi che ricorrono più spesso sono il piuttosto che in sostituzione di o, quello di cui abbiamo già parlato e che abbiamo classificato come disgiuntivo, poi gli assolutamente non seguiti dal sì o dal no. Anche di quello abbiamo già parlato. Esattamente, infatti, sì. O il quant'altro a chiudere un discorso. E poi i sempre verdi attimino e secondino, che non intendo nel senso del sorvegliante delle carceri. Ecco, quando qualcuno sente uno pneumatico può ritenerlo brutto, però invece è giusto. Giustissimo. Ecco, quindi teniamolo così, cerchiamo, sì, sì. Anche se mi sa che non vince, ma fa niente. Piano, qualche pubblicità lo sto utilizzando. Meno male. Sì, sì. È ritornato, speriamo, sì, che torni e che si imponga. Come sintetizzare questa carrellata di brutture, di bruttezze o di brutterie, dicendo che il brutto viene da lontano, da molto molto lontano. Perché? Perché la parola per brutto, che originariamente era Brutus o con la forma raddoppiata Brutus per l'appunto, è rimasta immutata in tutta quanta la storia del latino prima e dell'italiano dopo. Al contrario però quella per bello, che in latino suonava pulcher, è stata invece spazzata via da formosus, che ad esempio nello spagnolo ha dato hermoso, e dall'altra forma bellus, che è un diminutivo invece della parola per buono. Quindi questo avrà di sicuro delle implicazioni ed era un dato che credevo andasse tenuto in considerazione, quindi il brutto si mantiene molto più del bello. Grazie Francesca Dragotto, buona domenica e curati l'influenza. Grazie, a presto. Strade in diretta. Circolazione scorrevole sulla rete autostradale, ma prudenza per il maltempo, piogge sparse sul medio e basso Adriatico e sulle zone tirreniche meridionali, con neve sull'Appennino, pioggia mista a neve sulla 24 tra Sergio e San Gabriele Colledara e sulla 25 Roma Pescara tra Ielli Celano e Cocullo, ma senza ripercussioni sulla viabilità. I venti poi sono sostenuti e i mari molto mossi o agitati, collegamenti marittimi difficili tra Napoli e le isole del Golfo e tra la Sicilia e le Eolie. È tutto, a più tardi. Il gastronauta. Davide Paolini, ciao, buona domenica. Buona domenica a tutti. Ciao Davide, scusa, sorrido perché c'è una persona che ha scritto bocciato alla maturità. E no, non è stato assolutamente così. C'è stata quella cosa, poi è stata discussa e risolta. È una cosa che mi riferisco a quanto detto prima con la Dragotto. Allora, oggi parliamo del bello e del brutto, perché anche in cucina, tipo i brut ma bon sono brutti ma assolutamente buoni. Quanto c'è di brutto ma buono in cucina, Davide, in generale? Ma sai, il brutto molte volte è una reazione delle persone magari rispetto alla forma che vedono sul piatto, poi magari una volta assaggiato quel piatto lo mangiano, ad esempio l'interiore, le frattaglie sicuramente non sono belle da vedersi perché immediatamente portano così a un qualcosa forse di macabro, quindi molta gente secondo me li rifiuta proprio perché alla vista e non tanto al sapore. E devo dire che io da piccolo, da bambino, ad esempio rifiutavo i passatelli, che poi ho amato perché pensavo mi ricordavano le bisce, quindi figurati te, c'era questo tipo di reazione e mi rifiutavo di mangiarle. Quindi ci sono sicuramente queste reazioni. Certo che il bello presentato bene è più appetibile, magari il sapore e poi il gusto non è come uno si aspetta. E molte volte appunto una cosa che vede brutta, immagina brutta, poi la mangia ed è molto molto molto positiva. Oggi ad esempio sul cake design si ricercano delle forme molto, come posso dire, molto elaborate, molto, molto studiate anche a tavolino, e magari i brutti ma buoni appunto sono un'altra cosa, perché appena li vedi non è che ti viene voglia di metterli in bocca, e ci sono tantissime cose credo che abbiano questa, così, questa reazione. Penso ad esempio che le carrube che sono questo frutto ormai rarissimo, però a vedersi sono molto brutte. Io ad esempio adoro quel sapore delle carrube, e quindi, e molti invece appena le vedono, figurati se le mettono in bocca. Io credo che queste cose nascono da bambini, proprio perché da bambini ci sono delle reazioni che ci portiamo dietro. Per tutta, certo, che poi non ti dimentichi più. Senti, Davide, prima si parlava dell'arte, no? L'arte che è concettuale, e quindi arriva prima a toccarti la corda intellettuale e dopo invece quella del piacere, no? Ecco. Sì. Tu pensi che ci sia anche una cucina di questo tipo, cioè che arrivi prima a toccarti dal punto di vista intellettuale e poi quello del gusto, o no? Nel caso sì, sicuramente. C'è quella cucina che diciamo che tutti hanno giudicato anni fa la migliore del mondo, che è quella di Ferran Adrià. Sicuramente quella è una cucina concettuale. Io l'ho chiamata meta cucina e non cucina, perché sicuramente prima ti tocca il cervello, ti tocca l'intelletto, ti tocca delle liaison che fai, e poi una volta che poi diciamo ci rifletti, mangi e senti anche il gusto, però il primo impatto è sicuramente concettuale. E devo dire che ce ne sono di cuochi molto, molto concettuali che puntano molto su questo, quindi credo che esista come un filone di cucina concettuale. Oggi diciamo che è meno in voga in questo periodo, dove probabilmente si guarda più ad altro, al concreto, e quindi si guarda meno all'intelletto, però credo che ci siano delle connessioni, correlazioni sicuramente con l'arte, non ci sono dubbi su questo. Grazie Davide Paolini, sentiamo sabato per la tua trasmissione e domenica con questa. Buona domenica, ciao. Buona domenica, ciao, grazie Davide, ciao. Miro in 24 minuti. Ecco, un po' meno, devo dire, un terzo, però comunque sia. Per voi potete portarvi a casa il catalogo della mostra Miro, Poesia e Luce a Genova, e anche il biglietto ovviamente d'ingresso alla mostra, ammesso che riusciate ad associare un elemento della vita di Miro a questa canzone. Quando sei in mare a dolore, quando sei per mal d'amore, quando sei in mare a su vela, quando sei in mare a dolore, quando sei in mare a dolore, quando sei in mare a dolore, quando sei in mare a su vela, quando sei in mare a dolore. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila me, esta rumba taitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba taitana que yo siempre cantaré. Giovanni nella provincia di Pavia, ciao, buona domenica. Ciao, ciao a tutti. Allora, ciao. Giovanni, dobbiamo associare questa canzone, che sicuramente conosci, giusto, sì, di Gypsy King, sì, Baila Me, a un momento a qualcosa che ha a che fare con la vita privata di Miro. Allora, siccome si cita una ragazza, giusto, Maria Dolores, in questa canzone, sì, secondo te qual è l'elemento in comune fra la canzone e sì, Miro? Chi può, dunque, essere Maria Dolores? È la figlia che è nata di Miro. Ma tu eri preparatissimo, io ti ho aiutato, ma non serviva neanche il mio aiuto, dimmi la verità. Ho dovuto studiare, ho preso una laurea in... in mirologia, tipo, ovviamente, certo. Bene. Allora, per te il catalogo della mostra a Genova, e poi anche il catalogo della mostra che è a Genova e il biglietto di ingresso alla mostra. Grazie. Grazie mille, Giovanni. Buona domenica. Anche a te, buona domenica. Tra poco c'è Lebana. Ciao Lebana. Ciao. Tutti ti diranno, ma che nome è Lebana? Giusto, chiedo anch'io. Eh beh, te lo chiedo anch'io, beh, ovvio, Lebana, e non l'ho mai sentito tutta la mia vita, questa è la prima volta. Da dove origini bibliche comunque, ecco. Cerca su Google, lo trovi. No, ma chiedevo a te, facevo prima, è più bello, no? Adesso, no, sai che con quella... di Israele, nell'elenco dei figli di Israele ci sono i figli di Lebana, non ricordo in quale libro della, ecco, Bibbia. Ecco, sai che è una cosa, quella che mi dici, è una cosa veramente quasi insopportabile, no? Il fatto che ormai è cerca su internet, no, siamo abituati così, no? Ma trovi su internet, invece poi è bello invece ascoltarlo dalle persone. Lebana, ascolta questa canzone e dopo ti faccio la domanda, eh? Eccola qui. Ma mi vedi adesso in mezzo a questi fiori, ho ricominciato a vivere a colori, ma i più belli forse sono dentro al cuore, e te li posso raccontare e condividerli con te. Mi piace più di prima la mia vita, perché ridimensionata si è pulita, come questa pianta e questi fiori nuovi che profumano. Eccolo che questa, secondo me, è una straordinaria canzone di Fabio Concato, si intitola Oltre il giardino, la sua la storia di un uomo che a 50 anni perde il lavoro e si mette a fare il giardiniere. Lebana, cos'ha a che fare il giardiniere con Miro, secondo te? Diciamo che sapevo quella di prima. Perché Miro in un'intervista ha detto che lui lavora come giardiniere, come se fosse un giardiniere. Certo, non t'ho aiutato, è zero proprio. Vabbè, ci voleva, catalogo della mostra anche per te, Lebana. Grazie. E anche biglietto, grazie a te. Buona giornata, buona domenica. L'avevo detto io, che avrei aiutato, lo devo fare. E così abbiamo chiuso anche la puntata di oggi del Riposo del Guerriero. Sono contento di aver anche dato i cataloghi della mostra di Miro, che abbiate partecipato. Ma noi ci sentiamo domenica prossima, puntuali come sempre alle 10. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, l'assistenza di Barbara Bianchi, Paolo Corleoni invece in regia, e a voi tutti buona settimana da Stefano Gallarini.